Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 24 maggio, puntata numero 27 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albano e per la puntata di oggi andremo al confine tra India e Pakistan e più precisamente nel territorio, nella regione contesa del Kashmir, in parte controllata dall'India, in parte controllata dal Pakistan, perché il 22 di aprile un grave attentato terroristico ha provocato la morte di 26 civili indiani. L'attacco è stato condotto da forze terroristiche, come dicevamo, ma l'India ha accusato il Pakistan di essere fondamentalmente il manovratore o il mandante più o meno occulto di questi fatti. Dal 22 aprile l'escalation militare è montata con notevoli risvolti. È stato notato che, nonostante non sia il primo episodio del suo genere, India e Pakistan sono due stati che hanno subito una partizione nel 1947 e da allora le relazioni reciproche sono sempre state tradizionalmente molto tese. I conflitti, gli scontri armati di più o meno piccole dimensioni non sono mancati, ma in questo caso abbiamo assistito, come hanno osservato molti studiosi e analisti, a un salto di qualità, sia quantitativo che qualitativo, per quanto riguarda l'intensità del conflitto e dello scontro. È stato quindi considerato quello del 22 aprile, o meglio, quello che è cominciato dai fatti del 22 aprile, come il conflitto più sanguinoso e violento del suo genere nella storia recente delle relazioni tra India e Pakistan. Però il 10 di maggio i due paesi hanno trovato un accordo per il cessate il fuoco e da allora la tregua sembra in qualche modo tenere, però siamo di fronte, è bene ricordarlo, a due dei più grandi eserciti in termini di entità, di numerosità del mondo. L'India è il secondo esercito al mondo per numero di soldati, il Pakistan è invece il sesto esercito al mondo, ma soprattutto siamo di fronte a due paesi dotati di capacità nucleare. Insomma, entrambi i paesi hanno un importante deterrente in loro possesso. Questo quadro è importante comprendere anche quali sono state le azioni della diplomazia internazionale, non ultimo anche della diplomazia delle forze regionali. Il conflitto tra India e Pakistan sembra essere diventato un vero e proprio conflitto geopolitico che interviene e influenza anche le alleanze e le partnership, e anche le partnership militari e di sicurezza e le loro geometrie nella regione. E poi naturalmente significativo il ruolo della Cina e degli Stati Uniti come potenze globali, con forti legami con i due paesi. Per comprendere però appieno che cosa c'è e quali sono le forze che si muovono dietro a questo conflitto e che lo hanno in qualche modo alimentato, non possiamo non menzionare processi come militarismo e nazionalismo, che sono fenomeni in crescita sia in India che in Pakistan. Ma con l'introduzione mi fermerei qua per capire di più che cosa è successo in Kashmir il 22 aprile e come si sono evolute le cose da allora. Vi chiedo di aspettare qualche minuto prima di rivolgerci all'ospite di oggi, dopo una breve pausa musicale. A tra poco. Yeah. Vinicius, questi erano i Fria Goes West. Ben trovate e ben trovati. Come dicevamo in introduzione, da ormai qualche settimana e più il conflitto che tiene impegnate Pakistan e India attorno a un contenzioso che poi diciamo ha avuto un evento che ha nuovamente acceso lo scontro di recente sul Kashmir, hanno tenuto un po' occupate le cronache internazionali di questi giorni e di queste settimane. Noi oggi cercheremo di capirne di più. Per farlo abbiamo il piacere di ospitare in collegamento Diego Maiorano, professore di storia dell'India contemporanea presso l'Università di Napoli l'Orientale, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Partirei subito chiedendoti di ripercorrere brevemente le tappe del conflitto che dicevamo ha coinvolto India e Pakistan per l'ennesima volta in queste settimane. E in questo inquadramento, insomma, del conflitto ti chiederei anche di aiutarci a comprendere come si è arrivati al cessate il fuoco del 10 maggio e quanto stabile o precaria in alternativa si possa considerare la tregua in atto. Beh, le cose sono precipitate nel 22 di aprile, quando un comando terrorista ha compiuto una strage a Pahalgam, nel Kashmir occupato dall'India, uccidendo 26 civili che erano turisti indiani. E la cosa che ha fatto particolarmente scalpore tra l'opinione pubblica indiana e ovviamente anche nel governo indiano è che questi terroristi hanno chiesto l'identità religiosa delle persone, salvando donne e bambini e uomini musulmani e uccidendo invece gli Hindu. E questo naturalmente sarebbe stato fonte di profondo indignazione in un momento, diciamo, normale, ma lo è ancora di più nel momento in cui sta vivendo l'India, che è guidata da un governo ipernazionalista hindù, che quindi non ha potuto non reagire in maniera molto forte. Cosa che ha fatto poco tempo dopo aver annunciato ripetutamente che ci sarebbe stata una fortissima reazione militare. Questa reazione è arrivata nella notte tra il 6 e il 7 maggio, quando una serie di attacchi missilistici e aerei hanno colpito non solo la porzione di Kashmir occupata dal Pakistan, che tra molte virgolette è ordinaria amministrazione nel conflitto tra India e Pakistan, ma hanno anche colpito in profondità nel territorio pakistano vero e proprio, cioè del Pakistan, che non è quella porzione di territorio che non è contesa dall'India. C'è stata poi una forte reazione, probabilmente molto più forte di quanto l'India si aspettasse, da parte del Pakistan, che ha colpito di nuovo sia nel Kashmir occupato dall'India, sia in territorio indiano vero e proprio, e poi si è arrivati probabilmente, quasi sicuramente, con la mediazione degli Stati Uniti, a un cessate il fuoco il 10 maggio. Lì non sono in realtà ancora finite del tutto le ostilità, diciamo, perché ci sono state violazioni da una parte e dall'altra, ma poi le cose si sono effettivamente stabilizzate ed è la situazione in cui siamo ora, dove la situazione è precaria, ci sono grosse parole, molto aggressive da una parte e dall'altra, ma per il momento, la tregua regge e credo che reggerà. In parte per ragioni storiche, e cioè i momenti di tregua sono stati di gran lunga superiori ai momenti di conflitto. Questo conflitto va avanti dal 47 e forse ci sono stati in tutto un centinaio di giorni di guerra combattuta, e tutto il resto del tempo invece è stata una tregua armata, diciamo. Ecco, in questo momento siamo tornati a una fase di tregua armata che è destinata a durare fino al prossimo incidente, che purtroppo quasi sicuramente avverrà. Come dicevi e come dicevamo, non è quello di cui stiamo parlando il primo episodio del suo genere, cioè il primo scontro che vede coinvolte India e Pakistan, però come accennavi tu stesso e come hanno fatto notare alcuni osservatori, in questo caso il profilo quantitativo e qualitativo del coinvolgimento di questi due attori sembra annunciare un pericolo un po' maggiore rispetto agli episodi precedenti e ti chiederei a questo punto di aiutarci a comprendere perché, diciamo, lo scontro in atto, seppure adesso messo un po' tra parentesi, sia considerato in qualche modo più pericoloso sotto il profilo militare della sicurezza rispetto a quelli passati. Sì, è stato un conflitto più grave, appunto, sia dal punto di vista quantitativo, proprio col numero di aerei, il numero di missili, il numero di droni lanciati, e anche qualitativo, perché appunto ogni paese ha colpito non solo il Kashmir occupato dall'altro, ma anche il territorio dell'altro vero e proprio. E quindi è stato molto più grave che in passato. E se noi vediamo questo conflitto in una prospettiva anche di breve periodo, gli ultimi attentati dal 2001, diciamo, quando ci fu un gravissimo attentato di sospetto origine pakistana, l'India mobilitò le truppe, ma senza attaccare. Nel 2008, dopo gli attentati di Bombay, non ci fu una risposta militare, ma ci fu un tentativo di attanagliamento diplomatico che diede qualche frutto. Poi nel 2016 invece ci fu un altro attentato e un primo attacco missilistico, ma molto limitato. Nel 2019 ce ne fu un altro e ci fu una risposta superiore da parte dell'India, ma ancora limitato. Sostanzialmente l'obiettivo era attaccare senza causare danni. Questa volta invece l'obiettivo è stato quello di attaccare in maniera sì limitata, ma con l'obiettivo di causare danni ingenti. È impossibile capire quante persone siano morte, ma sicuramente sono morti anche dei civili. E quindi questo naturalmente alza l'asticella dello scontro. E quindi è come se vedessimo che a attacchi di sospetta origine pakistana l'India sta reagendo con crescente forza, il che naturalmente porta il Pakistan, che dichiara di non aver nulla a che fare con questi attentati, a dover reagire anch'esso sempre più forte. E quindi ci si avvicina, diciamo, a una linea rossa che sta da qualche parte, non è ben definita, quando una volta varcata non ci si fermerà più a un botta e risposta, ma ovviamente il rischio è di un'escalation più grande. La buona notizia, tra virgolette, è che fin dagli anni 90 gli Stati Uniti hanno agito come garante della tregua armata fra i due paesi. Dagli anni 90 entrambi i paesi hanno armi nucleari e quindi un innalzamento della tensione è ovviamente un problema per tutto il mondo e gli Stati Uniti, come anche in questo caso, si sono fatti in qualche modo carico di fare pressioni su entrambi i governi perché questa linea rossa, poi indefinita, non venga varcata. E a proposito di Stati Uniti, vorrei che ci aiutassi a capire anche qual è l'influenza e il ruolo delle potenze globali e regionali sul conflitto e sulle relazioni precarie e sempre tese tra Pakistan e India. Menzionavi gli Stati Uniti, dall'insediamento di Trump alla Casa Bianca, insomma, l'amministrazione statunitense non ha ancora conferito incarichi fondamentali per le relazioni tra Washington e l'Asia meridionale, quindi anche con Pakistan e India. Ti chiederei quindi, alla luce anche di questo evento specifico, qual è il ruolo della diplomazia, sia regionale che globale nella crisi in atto e con un'attenzione particolare alla influenza degli Stati Uniti e della Cina, che sappiamo avere anche un rapporto molto forte con il Pakistan e dall'altro un rapporto piuttosto ambiguo e contraddittorio con l'India. Sì, ma gli Stati Uniti hanno un ruolo appunto, soprattutto di garantire in qualche modo o fare pressioni perché non si arrivi vicino a una crisi di tale natura per cui uno dei due paesi debba temere per la propria esistenza, una crisi esistenziale, e che quindi potrebbe portare a un utilizzo di armi atomiche. E finora sono stati sempre in grado di farlo. Gli Stati Uniti si sono avvicinati molto all'India negli ultimi 20 anni e sono anche un alleato fondamentale del Pakistan, anche se da quando gli Stati Uniti sono fuggiti dall'Afghanistan, Pakistan ha perso un po' di importanza, ma rimane che sono un attore ovviamente estremamente importante. La Cina invece è in qualche modo un fattore di pace in questo momento perché esercita una fortissima pressione sul Pakistan, essendo l'alleato numero uno e il più stabile da tantissimo tempo, fornitore di quasi tutto il nuovo equipaggiamento militare, e che ha un interesse a che la regione del Kashmir rimanga relativamente pacifica, perché perché attraverso la porzione di Kashmir occupata dal Pakistan passa una parte della cosiddetta via della seta, e che quindi sono grandissimi investimenti da parte della Cina che vuole naturalmente preservare. E inoltre ha un ruolo anche di deterrenza nei confronti dell'India, perché Cina e India hanno un lungo confine conteso, che tra l'altro è stato oggetto di un conflitto piuttosto intenso, anche se non ancora violento, a partire soprattutto dal 2020. E quindi anche solo piccoli spostamenti di truppe da parte della Cina sul confine conteso con l'India porterebbero l'India a dover schierare le truppe su due fronti, e questo naturalmente è un incubo strategico da parte dell'India. Quindi entrambi i paesi, Cina e Stati Uniti, sono in grado di esercitare una forte pressione, ma rimane il fatto che quello che ha poi portato alla pace, se così possiamo chiamarla, è che non era nell'interesse né di India né di Pakistan intraprendere un conflitto prolungato. Il Pakistan è ingolfato in una crisi economica e politica di lunghissima durata, e l'India avrebbe anch'essa problemi economici notevoli a sostenere un conflitto lungo, oltre a ovviamente mandare gambe all'aria alla strategia volta ad attirare investimenti stranieri nella più generale discorso di abbandono oppure diminuire la dipendenza dalla Cina. Ecco, ovviamente un conflitto prolungato manderebbe questa strategia appunto a gambe all'aria. Paiono però esserci delle forze comuni, insomma, condivise tra Pakistan e India, che invece il conflitto è una maggiore assertività, una postura maggiormente radicale da parte dei rispettivi paesi, la sostengono e come? Parlo del nazionalismo e del militarismo, che sono fenomeni in crescita ormai da anni in entrambi i paesi. Chiederei a questo punto in che modo queste due forze politiche e sociali hanno influenzato questo conflitto e più in generale che peso abbiano sulla vita politica e il sentire popolare dei due paesi, anche in relazione alla contrapposizione reciproca. Beh, naturalmente l'ipernazionalismo, soprattutto da parte indiana, complica molto le cose. Il primo ministro Narendra Modi è a capo di un partito nazionalista indù, si è costruito un'immagine da uomo forte, autoritario, in grado di difendere il paese, farlo diventare una grande potenza, e quindi la sua base sociale chiede a gran voce una politica estera molto assertiva, soprattutto nei confronti del Pakistan, e a maggior ragione quando un comando terrorista che il governo ha immediatamente attribuito alla longa manus pakistana uccide dei civili indù. E questo è stato naturalmente, ha limitato le opzioni da parte del governo Modi, perché una reazione, e una reazione forte, ci doveva essere. Dall'altro lato del confine, in Pakistan, invece, il militarismo è una questione di lunga durata. L'esercito pakistano è di gran lunga l'istituzione più importante del paese. Di fatto, la politica estera è in mano ai militari e godono di un sostanziale potere di veto. E all'interno di queste dinamiche della politica pakistana, in tempi recenti è stata complicata dal fatto che il capo dell'esercito pakistano era in una situazione di difficoltà a livello politico e ha iniziato ad usare una retorica molto aggressiva nei confronti dell'India, sostanzialmente per stabilizzare la propria posizione. Per i militari indiani e per i militari pakistani, il conflitto con l'India è un po' una ragion d'essere, giustifica una spesa militare spropositata rispetto alle capacità economiche del paese, e quindi in qualche modo hanno tutto l'interesse di mantenere questo conflitto aperto, anche se stabile. Un po' paradossalmente, la situazione tutt'altro che florida della democrazia in entrambi i paesi è stato in qualche modo di aiuto a stemperare le tensioni, perché entrambi i paesi esercitano un controllo sui proprio sistema dei media molto molto forte, e da parte indiana perlomeno il primo ministro è anche in grado di controllare in maniera abbastanza capillare e precisa la propria base sociale. E questo ha consentito ai governi di dare una narrativa in pasto ai media che poi è stata accettata come quello che è effettivamente successo. Ma se uno si andava a leggere i giornali indiani e pakistani del periodo e anche ancora di questi giorni, non c'era nessun riscontro scontro con la realtà dei fatti. Ognuno ha dato la propria versione, ognuno ha potuto cantare vittoria e questo in qualche modo ha fatto spegnere un pochino perlomeno la fiamma ipernazionalista in entrambi i paesi. Bene, insomma, anche per il conflitto in atto, vediamo che il nazionalismo è sempre un processo, come dire, molto, molto rischioso e pericoloso, è sempre da tenere sott'occhio. Intanto prendiamo atto della tregua che tiene e che speriamo, possa tenere ancora a lungo. Diego, il nostro tempo è finito. Io ti voglio ringraziare per averci aiutato a fare luce, nel conflitto e anche sulle dinamiche che stanno dietro il conflitto e che, insomma, riguardano in maniera più profonda le relazioni tra India e Pakistan. Grazie. Grazie mille a Diego Maiorano. Grazie a voi. Noi ci risentiamo come sempre il prossimo sabato alle 13:30. L'emittente e le frequenze le conoscete già, sono quelle di Radio Città Fujiko. vivere.